Il punto di Stefano Folli. Chissà se è stata una buona idea aver trasformato le elezioni europee in un grande referendum pro o contro il governo. Che questo fosse nell'interesse di Grillo è logico. Meno ovvio è che il presidente del Consiglio Renzi ha in qualche modo assecondato questa tendenza, forse trascinato dal gusto per la sfida. Sta di fatto che in nessun altro paese d'Europa si vive con altrettanta ansia il risultato di domenica. In Francia l'estrema destra di Marine Le Pen potrebbe uscire dalle urne come primo partito, ma non per questo si pensa a indire nuove elezioni politiche o a far dimettere il presidente Hollande. Il voto è per il Parlamento di Bruxelles, non per quello di Parigi o di Roma. Ma da noi si vive tutto questo con un supplemento di inquietudine, che è appunto nell'interesse delle forze contrarie al sistema, ma che dipende soprattutto dalla fragilità e forse dall'insicurezza di chi invece quel sistema dovrebbe difendere, certo per rinnovarlo. In realtà nulla è ancora perduto e domenica non vedremo la fine del mondo, quale che sia l'esito di questa confusa e molto volgare contesa elettorale.